Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che è in direzione dell'8 marzo, festa della donna. Allora abbiamo pensato di recuperare un interessante intervento della fumettista sceneggiatrice Valentina Grande, che si è tenuto proprio in un convegno organizzato dal CRAP l'ottobre scorso. Il tema era quello dei supereroi. Diversi relatori sono confrontati su questo elemento così importante nel mondo dei fumetti e nel loro significato, ma ci siamo posti anche la domanda: un supereroe può essere una supereroina? E su questo abbiamo interpellato Valentina Grande, che ci ha risposto appunto dando anche degli esempi di fumetti al femminile. A seguire, dopo l'intervento della Valentina, abbiamo invece la rubrica di Patrizia D'Antona, tratta dal blog Donne con lo zaino, che ci spiega il perché di un piccolo scandalo nel mondo dei fumetti: il fatto che quest'anno il Festival di Aguilera, il più titolato festival europeo, nonché residence di tanti artisti fumettisti, non si è tenuto. Quindi, dopo lo stacchetto musicale, andiamo con la voce di Valentina Grande. Sono una sceneggiatrice di fumetti e non ho scritto fumetti con protagonisti supereroi, ma forse potremmo dire che sono dei supereroi, perché io mi sono occupata prevalentemente di biografie di autori, autrici, artisti e artiste, e sono tutte persone che hanno creato immaginari. Quindi alla fine forse vi dirò perché sono supereroi, nel senso che il discorso legato al supereroe è qualcosa di eccezionale, ci permette di poter vivere un'altra vita e anche di tirare fuori da noi stessi, da noi stesse, tutte quelle componenti che non pensiamo di avere. Allo stesso tempo è molto più forte l'immaginario della realtà stessa. Io ricordo per esempio che tanti anni fa avevo letto un testo che si chiamava Atlante europeo della letteratura. In questo volume l'autore aveva preso dei romanzi e attraverso delle cartine geografiche, delle mappe di città, ci mostrava come questi autori, come i protagonisti delle storie, fossero mossi geograficamente. E la cosa che mi aveva interessata, mi aveva incuriosita, era il caso Conan Doyle. Perché? Perché prendendo la mappa di Londra, Conan Doyle non aveva mai portato Sherlock Holmes in una zona di Londra, che è la zona di Whitechapel. E questo perché, diceva l'autore di questo volume. Nel 1887 Conan Doyle aveva scritto la prima storia di Sherlock Holmes e l'anno successivo ci fu il primo omicidio di Jack lo Squartatore. Quindi in quegli anni operava realmente una figura oscura. E Conan Doyle evita che un personaggio di finzione vada geograficamente dove agiva l'antagonista per eccellenza. Perché? Perché si sarebbe rotta la finzione. Perché ovviamente un personaggio di finzione non poteva sconfiggere un personaggio reale. E per lasciare la finzione forte non lo fa agire in quei luoghi. Anche perché poi l'autore dice che a quei tempi si pensava addirittura che Sherlock Holmes fosse reale. Cioè molti lettori e molte lettrici pensavano che esistesse. Quindi l'immaginario è potentissimo, va al di là della nostra portata, più della realtà in alcuni casi. Ben arrivato qua Sherlock Holmes, detective privato Sherlock Holmes, tu sei ritornato Sherlock Holmes, c'è Watson con te. Sherlock Holmes, perciò ti stimiamo Sherlock. parlando di supereroi, io il mio contributo lo posso dare rispetto alla narrazione al femminile. Tre figure femminili, Wonder Woman, poi ci sarà Captain Marvel, fino a Miss Marvel. Perché sono tre figure che agiscono in tre momenti differenti e vanno a ricreare o perlomeno a presentare un immaginario differente, partendo ovviamente, come si stava dicendo prima, da delle esigenze del reale. Se i supereroi nascono in un momento in cui la nostra storia ha bisogno di contrapporsi a un male forte, in questo caso la nostra Wonder Woman nasce in un momento in cui le donne alla fine della guerra avevano partecipato, erano state presenti, e il suo creatore crea questa donna che ha dei poteri, parte dall'isola delle Amazzoni, quindi da una situazione matriarcale, e si ritrova poi a combattere con il lazzo della verità. Qual è però la cosa interessante di questo personaggio? Che viene ovviamente considerata ancora adesso una prima eroina protofemminista, cioè nel senso che l'idea era: sono sempre stati uomini, poniamo una donna. E quindi c'è semplicemente una sostituzione rispetto al ruolo. E questa è una cosa importante, perché se noi abbiamo un tipo di sistema che incarna dei valori, non è che solo il genere va a cambiare quell'immaginario. Se l'immaginario è un immaginario di potere in cui c'è un eroe, non è che ponendo una donna noi davvero portiamo il cambiamento. Quella donna deve essere portatrice di qualcos'altro. Ma questo è stato il primo passo per quello che verrà dopo. Waiting for you and the power you possess in your satin tights, fighting for your rights and the old red, white and blue. Hawk and dove, stop a war with love, take a liar, tell it true. Wonder Woman, get us out from under. Wonder Woman, all our hopes are pinned upon you and the magic that you do. Stop a bullet cold, make the axis fold. Captain Marvel, il personaggio creato sarebbe Carol Danvers nel 1968. Siamo in un altro momento storico, la seconda ondata del femminismo, e quindi c'è una consapevolezza maggiore rispetto a quello che si vuole da un determinato tipo di immaginario. Se Wonder Woman è andata a riempire un vuoto, in questo caso c'è una ricerca di emancipazione, cioè la figura femminile deve avere qualcosa in più, ricerca una parità di ruoli. Io sono alla pari. È fondamentale come personaggio perché innanzitutto mostra anche delle sue debolezze, il fatto che probabilmente abbia subito degli abusi in passato, ha un rapporto con il maschile anche conflittuale perché ha paura quasi di essere assorbita dal maschile. Ci mostra esattamente, proprio speculare a quello che era il femminismo di quel periodo lì, una ricerca di voce, di attenzione, di visibilità, senza avere ancora quella forza di poter dire: non cerco la parità, ma cerco la differenza. As a friend, as a friend, as a friend. l'ultimo personaggio di cui vi parlerò del 2013, invece io penso abbracci tutto ciò di cui vi sto parlando. Perché? Perché ci troviamo di fronte a una ragazza pakistano discendente, perché innanzitutto è un'adolescente, e questa è una cosa molto interessante. L'adolescenza di per sé è sempre la guerra, quel passaggio, è una fase terribile perché si cambia il corpo si modifica, e quindi la metamorfosi migliore, proprio metafora, del diventare altro. Allo stesso tempo siamo nel 2013, gli Stati Uniti avevano vissuto l'11 settembre, conflitto religioso, in un certo senso c'era. Lei è musulmana, lo vediamo subito nelle prime tavole, la storia inizia con lei che vorrebbe solo odorare un panino con del prosciutto. E quindi immediatamente c'è chi le ricorda, ma dai, questa cosa tu non la puoi fare. Un conflitto suo interiore, all'interno di una famiglia in cui il fratello è super credente, il padre sembra invece è quasi disinteressato, ma lei sente questo conflitto forte. Perché? Perché lei viene vista comunque in un certo modo all'esterno, viene etichettata, quindi non è bianca, è un'adolescente, è una ragazza, ed è di una religione che in quel momento era anche invisa alla maggior parte delle persone. E questa è la bellezza di questo personaggio a proposito di immaginari. Perché? Perché abbraccia in maniera intersezionale, come il femminismo dell'ultima ondata, e quindi abbraccia tanti assi di oppressione, quello religioso, quello del genere, quello anche dell'età, del fatto che chi è più piccolo debba sempre subire le decisioni di chi è più grande, della sua discendenza nel non essere una americana a tutti gli effetti. E come lo raccontano gli autori? Questa è una cosa veramente bellissima, perché lei ad un certo punto ottiene questi poteri, ma la sua grande eroina era Captain Marvel. E la prima trasformazione, lei quando si trasforma, quando ottiene questi poteri, è bianca, è bionda. Perché? Perché l'immaginario è più potente della realtà. Se noi abbiamo letto sempre delle storie in cui ci sono quelle rappresentazioni, non abbiamo la capacità di pensarci in un'altra maniera. Noi ci immaginiamo come ci hanno raccontato, e quindi lei non poteva immaginarsi supereroina con il colore della sua pelle, e quindi riprende quel tipo di immaginario. E l'evoluzione è l'arco di trasformazione che lei avrà durante la storia che la renderà davvero un'eroina, perché lei rifiuterà questo tipo di sua rappresentazione per essere se stessa, e quindi la vedremo alla fine essere un'eroina con il suo corpo e con la sua fisicità. E quindi rispetto proprio al primo personaggio Wonder Woman, noi qui arriviamo ad un'idea diversa. Innanzitutto al fatto che il nostro supereroe abbraccia tutte le marginalità. E la seconda cosa è che c'è davvero una grandissima sorellanza, perché anche questo è un problema. È un problema pensare che ci sia una persona che risolva, il supereroe, e non una chiave collettiva. E la chiave collettiva è davvero quella che ci può portare ad un reale cambiamento, cioè cercare negli altri, nelle persone che ci circondano, cosa che questa ragazza farà, perché lei continuamente cerca aiuto anche negli adolescenti, negli amici che la circondano. E questa è quello che forse l'immaginario migliore da poter passare a degli adolescenti, il fatto di non pensare di essere sul palco ed essere i primi, ma di cercare una collaborazione con le persone che si ha anche accanto, partendo da quello che si è realmente. Quindi io, che scrivo biografie di autori, autrici, e le ultime storie che ho scritto sono storie di emarginati, non mi sono mai davvero piaciuti i vincenti. Mi piacciono per migliorarmi, però le storie che mi piacciono di più sono quelle legate a persone che magari non si guardano, non si osservano, perché mi chiedo cosa avrà da raccontare. Ecco, io che ho scritto soprattutto quindi biografie, io penso che loro siano dei supereroi. Un Salinger, un Carver, le artiste femministe, gli autori e le autrici, i disegnatori, gli architetti del Bauhaus. Perché? Perché hanno creato degli immaginari, immaginari nei quali noi viviamo, e probabilmente potremmo essere migliori se continuassimo a leggerli, perché forse la domanda va pensata molto in profondità, perché in questo momento ci dobbiamo chiedere qual è il nostro immaginario, se stiamo ancora leggendo, se stiamo ancora leggendo fumetti, se stiamo ancora leggendo letteratura, se arricchiamo la nostra fantasia per creare un immaginario, perché questo immaginario rischia di restringersi sempre di più con questi mezzi che abbiamo come l'intelligenza artificiale, e quindi di ritrovarci a pensare sempre alle stesse cose e di avere sempre uno stesso mondo nel quale vivere e non pensare alternative. Thank you. Quest'anno il Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême, che è uno dei più importanti eventi dedicati al fumetto a livello mondiale, non si è svolto e le ragioni generiche che sono state un po' diffuse erano quelle di una certa difficoltà legata alla situazione sociale e politica in Francia, scioperi, proteste, condizioni sanitarie, problemi economici, ma insomma in realtà dietro ci sono delle ragioni molto più profonde, quindi non questioni generiche, ma qualcosa che è legato a una profonda crisi interna dovuta a delle proteste di autori, editori e professionisti del settore che hanno caratterizzato un po' tutto l'iter dell'organizzazione fino alla decisione finale appunto di annullare questo grande evento. Allora, cosa è successo davvero? Negli ultimi mesi del 2025 migliaia di autori e autrici di fumetti sono supportati alcuni da sindacati e collettivi come hashtag MeTooBD, bande dessinée, fumetti, hanno denunciato la gestione dell'organizzazione del festival, criticando in particolare la maniera troppo poco trasparente e poco rispettosa in cui è stato gestito il processo decisionale interno e quindi l'assenza di una reale rappresentanza degli autori nelle decisioni, diciamo, della macchina organizzativa e quindi in alcuni casi le proteste sono state anche una sorta di girlcott, cioè un boycott trasformato al femminile, no? Anziché boycott, girlcott, con una mobilitazione specifica delle autrici donne che in questo settore sono aumentate considerevolmente. E poi ecco, ci sono state quindi accuse di gestione problematica interna, casi di molestie sessuali citate dalla stampa francese, insomma tutti elementi che hanno alimentato la rabbia e il boicottaggio, effettivamente contribuendo a un clima di insoddisfazione e di mobilitazione della comunità. Ci sono stati ritiri di editori, perdita quindi conseguenza di fondi pubblici, perché dobbiamo ricordare che questo è un settore molto importante, insomma il contributo pubblico per la realizzazione di questi eventi, e quindi case editrici importanti hanno annunciato che non avrebbero partecipato all'edizione 2026. E poi siamo arrivati effettivamente quindi a una risposta da parte dei finanziatori pubblici, enti locali, Ministero della Cultura francese, che hanno minacciato o ritirato i loro fondi, e quindi di conseguenza a dicembre c'è stato ufficialmente annunciato appunto che l'edizione 2026 non avrebbe avuto luogo. Ricordiamo che è la 53 34esima edizione, quindi una grande, grande ormai tradizione quella di ritrovarsi in questa cittadina Angoulême, che ormai viene ricordata appunto soprattutto per questa grande occasione di incontro, che ripetiamo non è stata possibile poi realizzare quest'anno. E quindi possiamo ancora ribadire che c'è una vera e propria protesta interna alla comunità del fumetto da parte di autori, editori, critici e sindacati contro l'attuale direzione e gestione dell'evento, anche se gli organizzatori annunciano che nel 2027 si riprenderanno gli eventi annuali. Allora, il massiccio boicottaggio però ha sicuramente impedito appunto questa edizione. E abbiamo detto che la mancanza di trasparenza, la cattiva gestione, la scarsa considerazione per la comunità artistica si è espressa con una delle petizioni più importanti firmata da circa 400 autori, che esprimeva un messaggio chiaro. Traducendo dalla stampa francofona, diceva: non andremo ad Angoulême finché l'attuale organizzazione non verrà riformata e non sarà indetto un vero bando pubblico per scegliere chi gestisce il festival. E tra i firmatari c'erano nomi molto noti del fumetto internazionale, tra cui i vincitori del Grand Prix come Anouk Ricard, Posy Simons, Art Spiegelman e Chris Ware. Quindi possiamo dire che questa società che organizza il festival, la Neuvième Art Plus, è stata criticata un po' appunto da tutti i lati, più alcune episodi come licenziamento appunto di una dipendente che avrebbe subito violenza sessuale, e quindi un'ondata di sdegno della comunità che si è appunto poi fatta sentire. Insomma, è un problema che indica la necessità di una riforma più ampia della governance di questo grande festival. Ovviamente la protesta degli autori ha avuto un effetto domino, perché anche gli editori, quindi di bande dessinée francesi o belgi soprattutto, hanno annunciato che non avrebbero partecipato se gli autori non l'avessero fatto, chiaramente con una grande anche perdita nel settore di visibilità. Ma questo movimento di una portata storica, possiamo dire che ha avuto una svolta proprio ad Angoulême, proprio in 12 città francesi, più Barcellona, più a Bruxelles e a Mons in Belgio, un grande festival chiamato Grand Off. E quindi da questa diciamo forma, questa nuova forma che vuole essere di interconnessione tra le varie iniziative, feste presenti già sui vari territori, quindi decentralizzata e autogestita, con l'idea di una maggiore inclusività e partecipazione, ha permesso quindi, come dire, di questo weekend di fine gennaio, era previsto il 29 gennaio, in molti luoghi di tenere appunto degli eventi legati ai fumetti ugualmente. E in particolare l'edizione del giornale Libération, che è ormai tradizionalmente dedicato il 30 gennaio a Ambedé, quindi a questo, al Festival di Angoulême, è stato comunque pubblicato, anche chiedendo a 15 autrici e 15 autori come vedrebbero una nuova edizione di questo festival annuale, e qualcuno, quindi sono in diversi, hanno espresso con disegni come la trasformazione di BD, che vuol dire bande dessinée, le strisce, in TD, tapis dessiné, cioè come dei libri volanti dove appunto viaggiare con i fumetti. Una bella immagine con cui appunto possiamo sperare che questa arte possa continuare in contesti sicuramente meno critici. Quindi alcuni slogan che sono stati appunto annunciati e che esprimevano un po' questo l'ambiente, l'atmosfera era Make Angoulême Great Again, quindi una nuova forma di maga, oppure Peace and Off, per dire appunto che i fumetti, gli autori, le autrici e le edizioni hanno scelto una forma più libera, diciamo, per poter esprimersi. E quindi 76 luoghi diversi di incontri, 500 artisti hanno comunque cercato di rendere più popolare, senza competizioni, premi o appunto tutto ciò che di negativo è stato segnalato, ma personalità dei fumetti come Lisa Mandelus, Julie Doucet hanno raccontato appunto il loro festival ideale, e con questo speriamo appunto che davvero anche quest'arte non venga contaminata da ragioni così poco edificanti. E quindi un augurio al Grand Off per una edizione sicuramente originale e particolare. (Susurra)